Grazie Vito, grazie Monica per quello che tu hai espresso, anche se sono grande o vecchio agli occhi tuoi, è quello che volevo dire a mamma, è quello che volevo dire a mamma, e questo è molto bello. Benvenuti, bentrovati, siete contenti? Siete contenti che ci sono io? Sì. Fatemelo vedere con un sorriso, cioè, vediamo. Allora, siete contenti? Una delle cose più brutte che può vivere qualcuno che è sul podio, che sta dicendo qualcosa, è immaginare di avere di fronte degli spettatori. È brutto, è una cosa distante, perché gli spettatori li devi conquistare, li devi soddisfare perché hanno pagato un biglietto. Se invece è vicino la tua famiglia, è tutto diverso. Puoi esprimerti e dire quello che hai nel cuore senza paura e senza timore. Quindi io so che sono in mezzo agli amici, è vero? Non ci siamo capiti. So che sono in mezzo agli amici, è vero? No, no, no. Voi dovete dire no, siamo in mezzo alla nostra famiglia. So che siamo in mezzo agli nostri amici. So che siamo nella nostra famiglia. Ah, ok, hai visto come funziona, sì. Un giorno un bambino, ogni tanto mi devo muovere, capito? Ho fatto una scommessa con mio figlio che è in regia, allora ogni tanto mi devo muovere. Un giorno un bambino chiese a suo papà, disse: papà, che cos'è un uomo? Allora questo bambino piccolino chiese al papà: che cos'è un uomo? E il papà gonfiò il petto, si aggiustò un poco, fece una breve riflessione e disse: un uomo è chi si prende cura di te, è chi ti protegge, qualcuno di cui ti puoi fidare ciecamente. E il bambino ci ha pensato un attimo e ha detto: ok, da grande voglio essere un uomo come mamma. E noi vogliamo onorare questa mattina le mamme, e lo faremo prendendo esempio, prendendo idea da alcune mamme, dalla storia di alcune mamme che sono nella Bibbia. La Bibbia è la parola di Dio, e Dio è completamente adatto, permettetemi questo termine, a spiegarci come essere completamente adatti come papà, ma anche ad essere completamente adatti come mamme, perché è lui che li ha fatti maschio e femmina. Quindi lui c'è completamente ogni maschio e c'è completamente ogni femmina e quindi ogni mamma. Questo è importante che lo teniamo a mente. Dio sa come essere un buon papà e Dio sa come essere una buona mamma. Vogliamo iniziare a prendere qualche spunto dalla storia della mamma di Sansone. Sansone non è soltanto un film che hanno fatto o un cartone animato, è anche una storia della Bibbia, e la vogliamo leggere assieme in Giudici al capitolo 13 al versetto 2. C'era un uomo di Soria della famiglia dei Daniti di nome Manoah. Sua moglie era sterile, non aveva figli. L'angelo del Signore apparve alla donna e le disse: ecco, tu sei sterile, non hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dunque dal bere vino o bevanda alcolica e da non mangiare nulla di impuro, perché tu concepirai e partorirai un figlio, sulla cui testa del quale non passerà rasoio, perché il bambino sarà un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei filistei. La donna andò a dire a suo marito: un uomo di Dio è venuto da me, aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto davvero tremendo. Allora Manoah supplicò il Signore e disse: Signore, ti prego che l'uomo di Dio che ci avevi mandato torni di nuovo a noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il bambino che nascerà. E Dio esaudì la preghiera di Manoah, e l'angelo del Signore tornò ancora dalla donna che era seduta nel campo, ma Manoah suo marito non era con lei. La donna corse in fretta a informare il suo marito e gli disse: ecco, quell'uomo che venne da me l'altro giorno mi è apparso. Manoah si alzò, andò dietro a sua moglie e, raggiunto quell'uomo, gli disse: sei tu che parlasti a questa donna? E quell'uomo rispose: sono io. Emmanuel, quando la tua parola si sarà avverata, quale norma e come si dovrà seguire per il bambino? Che cosa si dovrà fare per lui? L'angelo del Signore rispose a Manoah: si astenga la donna da tutto quello che le ho detto. E poi continua e inizia la storia di Sansone. E questa storia ve l'ho letta tutta perché ci sono diverse cose importanti, diversi spunti importanti che noi possiamo e dobbiamo prendere. L'esperienza di questa mamma, la moglie di Manoah, è molto simile all'esperienza di Eva nel paradiso. Vi ricordate? Anche Eva ha avuto l'apparizione di qualcosa di molto bello, e anche lei ha avuto una notizia straordinaria. A Eva avevano detto: se c'è la possibilità per te di essere come Dio. E a Manoah hanno detto: tu puoi diventare una mamma, anche se fino a oggi sei stata sterile. E sono due cose straordinarie, con due promesse straordinarie. Ma notate la reazione delle due donne è completamente diversa, e questo ci deve parlare. Mentre Eva ha accolto quella promessa, ha accolto quelle parole e le ha gestite per conto suo, ci ha riflettuto, ci ha pensato, ha preso delle decisioni, qua la moglie di Manoah fa qualcosa di molto semplice: va da suo marito e gli racconta: guarda che mi è successo così. La cosa sorprendente è che suo marito non le dice: ma che stai a dire, possibile, a te è venuto un uomo? No, gli ha creduto, gli ha dato fiducia e ha pregato con lei per il proseguimento di quello che era iniziato. E qui abbiamo una lezione molto importante. Il fondamento più solido che noi abbiamo, il fondamento più solido che una donna ha per diventare una buona mamma è essere una buona moglie. Le due cose vanno d'accordo. Eva che ha fatto? Ha preso suo marito e l'ha messa a dormire. Me la vedo io. Questa donna ha preso suo marito e se l'è messo a fianco. E suo marito è stato disposto a essere a fianco e a seguire la sensibilità della moglie. Questa è una lezione molto, molto importante. Il risultato di questo è stato disastroso per Eva, ma è stato di grande benedizione per la moglie di Manoah. Infatti Dio ha ascoltato la preghiera e ha continuato a dare delle istruzioni. E sapete che cosa è successo? Che il marito di Manoah il marito di questa moglie, Manoah, è diventato un complice, un alleato di sua moglie. E questo fa la differenza. L'atteggiamento di una moglie, l'atteggiamento di una mamma può rendere il marito un antagonista o lo può rendere un complice, lo può rendere un alleato. Tutto dipende dalle decisioni e dalla posizione che prende. La Bibbia qui ci mostra di camminare assieme, di condividere, di credere l'uno nell'altro. E questo permette il compimento della promessa di Dio in una sana relazione familiare. Ma vediamo anche che l'angelo dà delle istruzioni molto pratiche alla donna e gli dice: guarda che tu da questo momento devi cambiare. E forse diventare mamma per una donna è il cambiamento più importante, e cambiano i sentimenti, cambiano le priorità, cambia tutto, e se ne accorge chiunque che è vicino. E quello che succede è che una donna può avere il desiderio di diventare mamma, ma non il desiderio di cambiare. Perché? Perché magari diventare mamma significa cambiare le proprie priorità. Diventare mamma significa perdere parte della propria libertà e dover imparare a convivere con un corpo che è un po' diverso da quello che era prima. Però sapete questa storia che cosa ci insegna? Che accettare quel cambiamento accettare quello che Dio dice permette la realizzazione del piano di Dio nella vita del bambino e nella vita della famiglia. Questo è così lampante, è così chiaro in questa storia che noi rischiamo di perderlo di vista. Se come mamma e anche come papà tu rimpiangi la libertà che avevi prima, tu rimpiangi le possibilità che avevi prima e che questa nuova stagione della tua vita ti ha tolto o ha cambiato, questo non farà del bene né a te e né a tuo figlio. Ma accettare il cambiamento, sapere di dover andare incontro a un cambiamento e continuare a cambiare secondo quello che la Bibbia dice. Vedete, l'angelo gli ha detto dettagliatamente che cosa doveva fare e la Bibbia dice dettagliatamente quali sono le responsabilità di un uomo e di una donna. È molto bello diventare mamma, ma è anche una grande responsabilità. È molto bello diventare mamma. Vedete, una donna cambia già dall'inizio, che le nausee e le puzze e le cose. E poi io ho avuto la possibilità di assistere al parto, a un parto di mia moglie, e ogni volta che mi ricordo dico: Signore, grazie, grazie che mi hai fatto uomo, grazie che mi hai fatto uomo. Però le mamme poi ne prendono un premio grande, perché i figli crescono e il papà può rimanere un esempio, un riferimento, un aiuto, ma la mamma è la mamma. È vero o no? La mamma è la mamma. E questo è, diciamo, il rovescio della medaglia. Accettare e vivere secondo quello che è la guida di Dio, la nuova stagione nella famiglia, creando un'alleanza, e nella propria vita personale, vivendo e accettando il cambiamento, permette la realizzazione del piano di Dio nella nostra vita come genitori, come mamme. Un altro esempio, vi piace questo fatto o no? Ne ho tre di esempi, io posso anche concludere qua, ma se vi piace vado avanti. Vi piace? Sì, vi piace. Allora, la mamma di Mosè. La mamma di Mosè è anche qualcosa di molto particolare, c'è anche veramente tanto da imparare. Il contesto nel cui la storia della mamma di Mosè si sviluppa è abbastanza drammatico. Il popolo di Israele è schiavo del popolo d'Egitto e fa i lavori più umili e viene vessato, viene umiliato. E succede anche qualcosa di molto particolare. Siccome ciò nonostante facevano i figli assai e cresceva il popolo, allora il faraone ha detto: tutti i maschi li dobbiamo buttare nel fiume, solo le femmine devono sopravvivere. E così stava succedendo che man mano che nascevano i maschi li prendevano e li buttavano nel fiume, dove o annegavano o se li mangiavano i coccodrilli. Questo è il contesto di questa storia. Leggiamo assieme qualche versetto da Esodo al capitolo 2 al versetto 1. Un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. Questa donna concepì, partorì un figlio e, vedendo quanto era bello, lo tenne nascosto 3 mesi. Quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi pose dentro il bambino e lo mise nel canneto sulla riva del fiume. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per vedere quello che gli sarebbe successo. La figlia del faraone scese al fiume per fare il bagno e le sue ancelle passeggiavano lungo la riva del fiume. Vide il canestro nel cannetto e mandò la sua cameriera a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino. Ed ecco, il piccino piangeva, ne ebbe compassione e disse: questo è uno dei figli degli ebrei. Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che allatti questo bambino? La figlia del faraone le rispose: va. E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: porta con te questo bambino, allattalo e io ti darò un salario. Quella donna prese il bambino e lo allattò. E quando il bambino fu cresciuto lo portò dalla figlia del faraone. e fu per lei come un figlio, ed ella lo chiamò Mosè, perché disse: io l'ho tirato fuori dalle acque. Ora, in questa storia è incredibile la ricchezza che c'è. Lo stavo pensando mentre lo leggevo. Quella mamma che era stata disposta a lasciare andare suo figlio lo ha ricevuto con un premio. Vabbè, qualche altra volta ne parleremo di questo fatto. Comunque, questa storia ci insegna che l'amore di una mamma fa la differenza. La tradizione, l'uso comune di quel tempo non permetteva a quella donna di fare quello che ha fatto. Ma lei ha preso il coraggio, ha preso il rischio, ha preso la responsabilità di prendersi cura di suo figlio, al di là di quello che la società gli consentiva di fare. Lo ha nascosto, lo ha protetto, lo ha equipaggiato. Vedete, Mosè comunque è andato a finire nel fiume. Comunque Mosè è andato a finire nel fiume. Ma quello che la mamma aveva fatto per lui, aveva preparato per lui, lo ha tenuto a galla e lo ha salvato. E questa è una grande differenza. E ci parla molto chiaramente di quello che è il ruolo delle mamme, di quello che le mamme possono fare. Fino a quando ha potuto lo ha tenuto con sé. Quando non ha potuto più tenerlo, ha costruito un canestro. Lo ha cosparso di bitume, lo ha reso impermeabile e ha messo il bambino dentro e il canestro nel fiume. E quel canestro è rimasto a galla perché era fatto bene. Quella mamma ha fatto con quello che aveva, con le possibilità che aveva, il meglio che ha potuto per suo figlio. Ora, la domanda è: quanto noi, come genitori, come mamma e papà, ci spendiamo per il futuro dei nostri figli? E non intendo farli diventare delle ballerine o degli ingegneri o dei professionisti di primo livello. Intendo che, come Gesù ha detto, tutti quanti andranno a finire nel fiume. E Gesù, le parole di Gesù sono molto, molto chiare. Ascoltate che cosa dice. Io sono la porta, in Giovanni 10, versetto 9. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e ne troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e la abbiano in abbondanza. Questo è il fiume nel quale i nostri figli andranno a finire. Questo è il fiume nel quale noi siamo, dove il ladro, il diavolo, viene per rubare, ammazzare e distruggere. Non è cambiato tanto dall'epoca del faraone. Ma c'è un periodo della vita nella quale i genitori sono responsabili per i loro figli, come la mamma di Mosè. Certo, i figli diventeranno grandi, diventeranno responsabili delle loro azioni, saranno loro artefici, tra virgolette, del loro destino. Ma c'è una stagione, c'è un periodo dove la mamma e il papà, o il papà e la mamma, sono responsabili di creare quel canestro e di renderlo impermeabile affinché quei figli possano rimanere a galla. Una domanda per riflettere. Qual è la voce che, secondo te, i tuoi figli ascoltano di più e più spesso? La voce della scuola? La voce degli amici? La voce di Facebook? La voce della televisione? O la tua voce? Non ci risponderai, riflettici soltanto. Questo è le nostre parole alla fine. Sono parte di quello che noi abbiamo per costruire. Io desidero aprire con voi il mio cuore. Sapete, voi siete la mia famiglia. E io forse non lo so esprimere al meglio, ma ci credo in una maniera incondizionata. Voi siete la mia famiglia. Io ho avuto una mamma meravigliosa. Non tutti voi l'avete conosciuta, ma chi l'ha conosciuta ha potuto apprezzare che era una donna straordinaria. E il suo amore e la sua dedicazione per i figli era impeccabile. Basti dire che mia mamma era cardiopatica e per permettere a me di venire al mondo lei ha rischiato di morire. Quindi io sono l'ultima persona che può mettere in discussione l'amore di una mamma o di mia mamma per me. Però ho dovuto riflettere a quello che è stato il rapporto con mia madre e ho scoperto che c'era qualcosa nel nostro rapporto tra mia mamma e me che in qualche modo ha minato il mio diventare adulto, il mio diventare responsabile. Ed è qualcosa di molto molto semplice ed è qualcosa purtroppo di molto facile. Mia mamma qualche volta ha parlato con me di mio padre criticandolo. Ha parlato con me di mio padre dicendo non apprezzandolo, fatemi dire così. Ora voglio rassicurarvi, non c'è niente di drammatico. Io non ho mai visto mio padre gridare o picchiare o alzare le mani con mia madre, mai, non è mai successo. Però questo fatto di quelle parole e qualche volta vivere la distanza o la freddezza fra di loro mi ha messa a disagio. Mi ha messa a disagio come ci si può sentire in un canestro dove entra l'acqua. Il risultato di questo è che io mi sentivo a disagio a casa. Stavo meglio fuori che a casa. E questo aveva fatto crescere nella testa mia un'idea distorta di famiglia. E questo io me ne sono reso conto col tempo. Sapete chi ha guarito quell'immagine e chi ha restaurato la giusta relazione nella mia famiglia? Un'altra mamma, la mamma dei miei figli, con le sue parole poche, con i suoi fatti di spessore, piano piano ha cambiato l'immagine che io avevo delle relazioni nella famiglia e ha fatto in modo che assieme potessimo dare dei valori sani ai nostri figli per le loro famiglie. Io so per certo che mia moglie non ha mai parlato male di me con i miei figli e lo so perché vedo come i miei figli parlano con me. E questo è qualcosa che noi non possiamo sottovalutare. Mogli, non sottovalutate l'influenza che voi avete verso i vostri mariti, come la moglie di Manoa, la mamma di Sansone. Non sottovalutate l'influenza che voi avete verso i vostri figli. Perché quando diventeranno grandi, si ricorderanno tutte le parole, si ricorderanno tutte le grida, e si ricorderanno anche tutti i silenzi, e questo li aiuterà a rimanere a galla o ad affondare. È un grande privilegio, un immenso privilegio, ma è anche una grande responsabilità. E io credo che proprio perché è una grande responsabilità e noi ne avvertiamo il peso, la possibilità che abbiamo di coinvolgere Dio nella nostra vita, la possibilità di dirgli: Signore, aiutami a essere quel padre che vuoi tu, quella mamma secondo il cuore tuo, non ce la dobbiamo lasciare sfuggire, è troppo importante, è un'opportunità unica, perché abbiamo una vita e da questa ci dobbiamo regolare. L'ultimo esempio, ma fatemi un sorriso, che non è morto nessuno, la mamma di Gesù. E la mamma di Gesù c'ha anche qualcosa da insegnarci, ed è anche qualcosa di molto importante. A me viene da ridere perché io lo so le cose che sto per dire, mentre voi no. Matteo capitolo 1 versetto 18. La nascita di Gesù avvenne in questo modo. Maria sua madre era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. È strano leggere questa storia nel modo che io ve la racconto, però Maria è rimasta incinta quando meno se l'aspettava. Cioè, proprio l'ultima cosa che lei immaginava che gli dovesse succedere era quella di rimanere incinta. E invece, è come quella pubblicità, mamma dice, papà dice, ecco, uguale, è successo uguale. A quante mamme è successa la stessa cosa di avere un figlio piovuto dal cielo? Fatemi dire così, un figlio piovuto dal cielo. Quanta ansia porta dentro, quanti timori porta dentro, quanto è difficile da superare una cosa del genere, quanta difficoltà c'è nell'accettare qualcosa del genere, una gravidanza improvvisa. E si accetta veramente fino alla fine, si guarisce da questo, o poi alla prima occasione dice, vedi, ci capiamo. Beh, questo è quello che è successo a Maria. Cioè, questo è quello che è successo a Maria. E noi da lei possiamo imparare come affrontare queste cose. Maria inoltre ha avuto un altro problema, di avere un figlio particolare. Quante mamme qua hanno un figlio particolare? Posso vedere la mano? Mia madre ce l'aveva. Mia madre un figlio... È vero, Pastor Pinuccio? C'aveva un figlio particolare, mia madre ce l'aveva. Io penso che ogni mamma c'ha un figlio particolare, e qualche volta è particolare perché è bello a mamma sua, e qualche volta è particolare perché voglio essere accesi in qualche modo. E Maria c'aveva questo figlio particolare, e questo figlio particolare era il figlio di Dio. E se non è particolare una cosa del genere, ditemi voi com'era particolare. Come gestire questa situazione? Cioè, quando lo doveva rimproverare? Come lo doveva gestire? Non era una cosa automatica o semplice da fare. E qualcuno le aveva anche detto che la situazione andava a finire male. È scritto in Luca al capitolo 2:35, dice, una spada ti trafiggerà il cuore. Quindi sapeva che andava a finire anche male la storia. E tutte queste cose erano nella vita e nella gravidanza di Maria. Ma lei è rimasta fedele ed è rimasta vicino a suo figlio, l'ha cresciuto ed è rimasta vicino a suo figlio. E nelle sue parole c'è il segreto per il successo di essere una mamma di successo. Lo volete sapere? Lo volete sapere? Per essere una mamma di successo, una mamma che riesce ad accettare qualsiasi situazione le circostanze le propongono, per essere una mamma che riesce a stare vicino a un figlio particolare o difficile, Maria aveva scoperto il segreto. E il suo segreto è molto semplice. Lei ha detto in Luca al capitolo 1 al versetto 38, dopo che si era esaurita la visita dell'angelo che gli ha detto vai, e lei ha detto, ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Io sono la serva, è tradotto anche come ancella. E ancella, ho studiato un poco, è una parola di origine romana che era la serva della padrona, un poco diciamo la domestica di fiducia della casa. E Maria che dice? Io sono la serva del Signore. In queste parole c'è un segreto molto molto molto profondo, che è valido per le donne tanto quanto è valido per gli uomini. Se tu vuoi essere quella mamma o quel papà secondo il cuore di Dio e riuscire a essere una mamma e un papà di successo, in quello che fai devi riconoscere che stai servendo Dio. Io come mamma servo i miei figli, servo mio marito perché servo Dio. Io come papà servo i miei figli, servo la mia famiglia perché sto servendo Dio. Questo significa non farlo con le proprie forze, non farlo con la propria identità, ma farlo con l'identità di servo di Dio. E sapete che cosa cambia? Che se io lo faccio con la mia identità, lo faccio anche nella mia forza. E le delusioni che prima o poi i figli ti daranno, o prima o poi tua moglie ti darà, e le circostanze difficili che verranno, perché le fiabe finiscono che vissero felici e contenti, la vita è qualcosa di diverso. In quelle difficoltà, avere l'identità di servo di Dio significa poter attingere da Dio la forza, la speranza, l'amore per poter andare oltre quelle situazioni. È complicato essere genitori, è molto complicato. E io quando ci siamo sposati ho detto a mamma, ma noi figli non ne dobbiamo, mia moglie dice noi figli non ne dobbiamo fare, anzi eravamo fidanzati, perché per due motivi: uno, perché io non volevo quella responsabilità, e due, perché se li dobbiamo mettere al mondo in un mondo come questo non vale la pena. L'avvento di Dio nelle nostre vite, nella nostra famiglia, ha cambiato le cose. E noi siamo felici di avere dei figli. Siamo contenti, anche se non sono mancate le difficoltà, e non abbiamo paura di quello che verrà. Perché? Perché sappiamo che possiamo contare in Dio, possiamo contare su di Lui, e vogliamo vivere il nostro essere genitori, ma anche il nostro essere moglie e marito, come servi di Dio, prendendo da Lui la forza. Guardate che cosa dice in Romani 5 al capitolo, Romani capitolo 5 versetto 5. Or la speranza non delude. La speranza non delude. Se questa mattina sei venuto senza speranza, beh, la notizia è che c'è speranza. C'è speranza, c'è speranza per la tua famiglia, c'è speranza per te come mamma, c'è speranza per te come papà, c'è speranza per la tua vita. E la speranza è questa: perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Gesù lo sapeva che la vita non è come le favole, che vissero felici e contenti. E sapeva che ci sarebbe stato bisogno per ognuno di noi di un Salvatore. E Lui ha accettato di andare sulla croce per te e per me. Quando noi eravamo peccatori, non che adesso siamo molto meglio, però almeno crediamo e abbiamo una speranza che l'opera di Dio in noi è iniziata e porterà i suoi frutti. Amen? La speranza è questa: che tu puoi mettere la tua vita nelle mani di Dio e puoi chiedergli di aiutarlo a essere quel marito, quel padre, quella madre, quell'uomo, quel figlio, secondo il cuore suo. E questo fa la differenza, perché il suo amore viene messo nel tuo cuore. Non ti illudere che come mamma puoi avere tutto l'amore del mondo verso tuo figlio, o come papà. Non ti illudere, è una favola. Tu e io abbiamo bisogno dell'amore di Dio nel nostro cuore per amare i nostri figli, perché quello fa la differenza, e quello ci permette di essere quei genitori, quelle famiglie, quella chiesa di successo, che brilla e che mostra la luce di Cristo. È il suo amore dentro di noi che fa questa differenza. Quindi se vuoi veramente vivere pienamente la festa della mamma, accetta il regalo più grande. Accetta il regalo più grande, che è quello dell'amore di Dio che viene sparso nel tuo cuore. Se vuoi una speranza per la tua famiglia, se vuoi una speranza per i tuoi figli, se vuoi una speranza per te stesso, afferra adesso quell'amore di Dio che Lui vuole spargere nel tuo cuore, perché questo porta veramente vita e porta veramente speranza. Vogliamo alzarci in piedi e ringraziare il Signore per la Sua parola. Signore, io ti voglio ringraziare perché non dobbiamo fare tutto da soli. Certamente non ci riusciremmo e certamente saremo esposti al fallimento, alla delusione. E forse lo sappiamo bene, Signore. Lo sappiamo molto bene che le nostre risorse e le nostre capacità sono limitate. Per questo io ti ringrazio per la tua parola, per la speranza che dà, per la forza che dà, perché ci presenta un Dio che è stato disposto a raccoglierci, che è disposto a raccoglierci là dove siamo, per portarci dove Lui vuole che siamo. Io ti ringrazio, Gesù, e ti prego di benedire veramente tutte le mamme, ti prego di benedire tutte le famiglie, e che questo messaggio, questa visione, questa tua visione della famiglia possa entrare nei nostri cuori, mettere le radici e portare frutto per la gloria del tuo nome. Grazie, Gesù.